questione che avevo detto già giù, che mi è arrivato da lui. Sì, lascia le tante. Volete fare voi, mi fate voi la schedina? Sì, facciamo. Buongiorno. Sì, sì, sì. Ma non ce l'ha fatto, avevamo fatto già la fotocopia del tantissimo. Sì, l'ho fatta io.